ciu. Chi è? Chi è? Perché male? È un dico io che vado adesso, no? Beh, chi è? Avanti, buongiorno, buona domenica. Buona notte. Ma è venuto così? Salve, no. Però, è bene, non c'è bisogno. Tu? No. Bruno. Stai vedendo per qualche cosa? Che cosa? Non funziona, mi ha provato la sua domo, dove sono? Ma sono io? Allora. Boh, per andare a chiamare non mi chiede. Sì, sì, sì. No, però, buono, come te, come te. No, che posso da che zona, non so, no. Ma sto facendo la baita, non siamo un numero, non siamo tre numeri. Ma non sono mai, non lo mai. Allora, vai poi. Tu sei cos'è, nel Regno del Golfo? Io lo faccio nel... Sono del remoto, lo faccio. E c'è la... Sono del remoto, lo faccio più, se lo so, non devi mai andare lì. È vero, però di molto, ma che hai pinta? Se non cosa funziona da parlare? Non voleva fregare niente. Hai il computer? E via. E io lo lascia. Non mi metto nel computer. Vai, vai, vedi. Poi perché di spagnolo uno? No, di spagnolo no. Non l'ho mai, mai intesa, no. Grazie. Paolo, ma come mai? Prova radio 1, 2, 3. 1, 2, 3, passo. Guarda, Grazie, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Potresti fare la cortesia di darmi un controllo di Santiago Radio, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi contraccambio. Qua sei Santiago 2, 2 e mezzo, però la radio è incomprensibile, non è chiaro. No. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, ok, cambia microfono, vai. Siamo sempre qua. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, è sempre uguale, sempre uguale. Meglio per adesso con questo, con me. La radio sempre non è chiara, non è chiara, è distrutta. Guarda adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, aspetta. Vedi un po', 1, 2, 3. Non è stato pure Santiago, ma la radio non è chiara. Prova, 1, 2, 3. Attento, Gigino il vulcano. Senti qua, vita mia, che bella. Мы берем толик, лежит.